Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io faccio 5 km tutte le mattine, metà corsa, metà camminata e un'ora di piscina. Mi alzo alle 7, da Urà della Madonna, diciamo a Milano. Ma va bene, ho perso 11 kg. Senti che muscoli. Da morire. Va bene, ho fatto un'estate monacale, non sono uscito una sera a cena. E adesso come mi trovate? Oggi ho chiesto a una signora quanti anni mi dà. Vabbè, non ve lo dico perché... Ciao, vi auguro di arrivare alla mia età, nella mia forma mentale e fisica. Tutto sommato, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, non è un augurio cattivo, insomma, non è male, nel senso che, insomma, arrivarci, può essere d'accordo, può piacere o non piacere Berlusconi, ma arrivare nella sua forma sugli 81 anni non è mica male, no? Quella è la ricetta che dava della sua forma, è ritornato, diciamo, più combattivo che mai, e darà evidentemente del filo da torcere prossimamente di nuovo nella campagna elettorale, che ormai è cominciata da tempo, e lo vediamo già da quello che sta succedendo su Banca Italia, di cui torneremo a parlare tra poco. Questo uno dei temi di approfondimento, anche perché le reazioni continuano e la tensione tra i partiti anche a livello istituzionale è altissima e continuano ad arrivare dichiarazioni. Poi ci occuperemo anche di questa cosa pazzesca, di questa tragedia che è successa a Firenze a un povero turista spagnolo cinquantenne nella famosissima Basilica di Santa Croce. È caduto un capitello, lo ha colpito ed è morto, adesso è stata aperta un'inchiesta. Poi naturalmente ci collegheremo con la Catalogna. Oggi scadeva il secondo ultimatum che Madrid aveva dato al presidente catalano per tornare indietro sulla questione dell'indipendenza. Non ci sono state risposte. Che succederà adesso? Lo scopriremo poi collegandoci appunto con chi ci parlerà di Spagna e di Catalogna. Per i vostri commenti e le vostre riflessioni, lo sapete, ci sono sempre due canali per interagire con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Voi tra l'altro cosa ne pensate di tutto questo putiferio che è scoppiato intorno a Banca Italia? Se volete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, mentre io intanto vi racconto in sintesi che giornata è stata. Caso Banca Italia, dopo la mozione del PD resta alta la tensione tra i partiti e a livello istituzionale. Renzi dice che il governo era d'accordo e interviene anche Berlusconi. Il governatore dice non ha svolto il controllo che ci si attendeva. La crisi spagnola, oggi è scaduto il secondo ultimatum dato da Rajoy alla Catalogna. Puigdemont non ha dato risposte e Madrid sabato avvierà la sospensione dell'autonomia catalana, ma restano ancora dei margini per un accordo. Tragedia a Firenze, la procura del capoluogo toscano apre un'inchiesta per omicidio colposo per la morte nella Basilica di Santa Croce di un turista spagnolo a causa della caduta di un capitello. Lavoro, l'occupazione non decolla, boom di contratti a chiamata. Inquinamento, Torino chiude per smog, il comune avverte non aprite porte e finestre. Secondo gli esperti l'inquinamento uccide 9 milioni di morti solo nel 2015. Cannabis, primo via libera per l'uso terapeutico, prescrizione a carico del Sistema Sanitario Nazionale, più produzione, più ricerca. Calcio, in Europa League, la Lazio ha battuto il Nizza 3-1, in campo ci sono Atalanta e Milan. Partiamo quindi dal putiferio su Banca Italia, scoppiato dopo la mozione del PD contro il rinnovo dell'incarico al governatore Visco, approvato due giorni fa dalla Camera. Matteo Renzi ribadisce: Gentiloni era stato informato della mozione PD ed era d'accordo. L'opposizione intanto attacca il Partito Democratico. Matteo Renzi lo dice chiaro e tondo ad 8:30: tra galateo istituzionale e diritto dei risparmiatori sto dalla parte di questi ultimi. Quello del PD non è un blitz, sostiene il segretario, ognuno ha diritto di dire la sua, ma comunque rispetteremo qualsiasi decisione arriverà dal premier Paolo Gentiloni sul governatore di Banca Italia. La dichiarazione arriva al termine di una lunga giornata in cui lo scontro tra segretario PD e premier dello stesso partito sembra essere insanabile, con Renzi che rivela Gentiloni era al corrente e d'accordo con la mozione PD su Ignazio Visco, mentre Palazzo Chigi ribadisce che la scelta del nuovo governatore sarà fatta a tutela dell'autonomia di Palazzo Koch, e con l'opposizione sulle barricate, Luigi Di Maio dei 5 Stelle. Non me ne frega niente del segretario che va contro il Presidente del Consiglio, Sulle banche il PD è il principale responsabile del disastro. Diversa la posizione di Silvio Berlusconi di Forza Italia. Sul caso Visco, ovviamente la Banca d'Italia non ha svolto quel controllo che dalla banca stessa ci si attendeva. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una situazione dunque questa che merita tra poco un ulteriore approfondimento, quindi ci torneremo. Si avvicina intanto il referendum in Lombardia e Veneto. Il governatore della Lombardia Maroni dice: spero di chiudere la trattativa prima delle elezioni politiche. Faccio il tifo perché Bonaccini riesca, anche se dovrebbe ringraziare me e Zaia che abbiamo sollevato la questione. A dirlo all'ANSA è il governatore della Lombardia Maroni. Il riferimento è al fatto che il presidente dell'Emilia Romagna ha già fatto partire con il governo la trattativa per una maggiore autonomia senza bisogno di referendum. Maroni si augura di avere buoni numeri, un 34% almeno di votanti, e di aprire con il governo la trattativa prima di Natale per chiudere prima delle elezioni politiche, perché, spiega il governatore lombardo, l'autonomia non deve essere argomento di campagna elettorale. Poi la questione delle spese per la sicurezza dei seggi, 3,5 milioni a carico della Lombardia, dice Maroni, che aggiunge: nessuna sorpresa, sapevamo e abbiamo messo a bilancio. Posizione distante invece dal Veneto, che contesta le cifre stimate dal Ministero dell'Interno per la sicurezza dei seggi. Si tratta in questo caso di 2 milioni di euro. È una polemica inutile, dice l'ex sindaco di Verona Tosi, che conclude: la sicurezza la paga chi indice le consultazioni. A dirlo è la legge. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è qualche passo indietro e qualche novità nella bozza della manovra per il 2018 rispetto alle anticipazioni. Sembra che esca il bollo, che se ne vada fuori, insomma, il bollo del 2 per 1000 sulle comunicazioni relative alle polizze vita, rivalutabili a capitale garantito. Spunta invece un balzello da 10 euro per tutti i concorsi previsti dalla legge della buona scuola. Sul fronte del lavoro, la bozza di relazione precisa che sarà di circa 1 milione la platea di giovani assunti dal 2018 al 2020 grazie alle misure contro la disoccupazione. E a proposito di occupazione, nei primi 8 mesi del 2017 sono stati attivati oltre 1 milione di contratti a tempo indeterminato, con un meno 2,5% sul 2016, lo rivela l'INPS. Boom dei contratti a chiamata invece più 129%. Cannabis, ha avuto il via libera della Camera e si passa al Senato la legge sulla cannabis a uso medico e terapeutico. È possibile prescrivere farmaci a base di cannabis per la terapia del dolore e altri impieghi. Costi saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Sì dell'Aula, quindi, con 317 voti a favore, 40 contrari, 13 astenuti. Contrari Forza Italia e Lega, che parlano di rischi superiori ai benefici. Il PD parla invece di una norma di civiltà. Ci sono intanto brutte notizie per chi vuole andare in pensione anticipatamente. Le domande per l'accesso all'APE sono state rifiutate nel 70% dei casi. I sindacati avevano lanciato l'allarme ricordando una vicenda che sembra molto simile a quella degli esodati. L'INPS lo mette ora nero su bianco. Inoltre il 70% dei casi, in pratica 2 su 3, sono state respinte al mittente le richieste di aderire all'APE sociale, una delle forme di anticipo pensionistico varate lo scorso anno dal governo Renzi, cui è spettato poi all'esecutivo Gentiloni attuare, non senza inciampi, e insieme all'APE volontario, che solo in questi giorni è sbarcato in Gazzetta Ufficiale con mesi di ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia. Un flop dunque, a causa di requisiti troppo stringenti che hanno fatto venir meno la natura sociale della misura. Riservato ai lavoratori malati, disagiati o precoci, ai disoccupati, lo strumento sembra essere destinato a pochi, pochissimi. Le cifre le ha fornite il direttore generale dell'INPS, Gabriella Di Michele, che in un'audizione alla Camera ha spiegato che il monitoraggio è stato chiuso il 15 ottobre. Quanto basta al Ministero del Lavoro per decidere di allentare i criteri di esame delle istruttorie, in particolare per i disoccupati che si trovano in questa condizione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o addetti a mansioni rischiose o difficoltose. Per queste categorie l'INPS riesaminerà le pratiche, ma senza promettere nulla. Il budget 2017 a copertura dei 2 strumenti di flessibilità pensionistica rimane comunque molto esiguo. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il vertice europeo che si conclude domani a Bruxelles. La Brexit, i migranti, la difesa e il trasferimento dell'agenzia EMA ed EBA, tanti temi sui quali i leader europei stanno discutendo in queste ore in un vertice che si concluderà domani. Sui negoziati per l'uscita del Regno Unito progressi ci sono stati, ma secondo alcune fonti insufficienti per poter passare alla fase 2 della trattativa. C'è attesa però per l'intervento di stasera della premier britannica Theresa May e poi il capitolo migranti con il premier Gentiloni che rivendica il lavoro portato avanti dall'Italia e insiste sul contributo di tutti i paesi affinché i risultati si possano consolidare. Gentiloni che ha salutato con favore il voto della Commissione Affari Civili del Parlamento UE che ha abolito il principio del regolamento di Dublino sul paese di primo ingresso che ad oggi si assume tutti gli oneri della domanda di asilo, un testo che dovrà poi essere negoziato con i capi di Stato, il Presidente del Parlamento Europeo Tajani. Questo è un messaggio forte rivolto al Consiglio e mi auguro che il Consiglio profonda lo stesso impegno che ha profuso il Parlamento per modificare delle norme che sono ormai superate. Tra le altre priorità dell'Italia, la promozione della candidatura di Milano per la nuova sede dell'EMA e l'Unione Bancaria. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E passiamo adesso alla crisi spagnola. Oggi è scaduto il secondo ultimatum dato da Rajoy alla Catalogna e superata senza risposta questa seconda scadenza, il governo centrale si appresta ad avviare quindi le procedure per l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, quello che sospenderebbe l'autonomia della Catalogna. Un Consiglio dei Ministri straordinario sabato ne approverà l'attivazione, che sarà poi sottoposta al Senato, e l'applicazione di questa sospensione dell'autonomia potrebbe avvenire tra il 30 e il 31 ottobre. Poi cerchiamo di capire tra poco se ci sono effettivamente dei margini di dialogo. Intanto invece torniamo in Italia con questa tragedia che è avvenuta a Firenze. La procura del capoluogo toscano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte nella Basilica di Santa Croce di un turista spagnolo di 52 anni a causa del distacco di un frammento che lo ha colpito, della caduta di un capitello. Secondo quanto appreso, il fascicolo di questa inchiesta al momento è contro ignoti. Nel corso di Effetto Notte ci collegheremo con Firenze per sapere qualcosa di più. Intanto notizia di poco fa, Forza Nuova ha rinunciato a tenere qualsiasi iniziativa il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma fascista del 1922, dopo il divieto notificato dalla questura della capitale per la manifestazione annunciata. Nel pomeriggio odierno i promotori si sono presentati in questura comunicando quindi nuove modalità di svolgimento dell'iniziativa. Praticamente Forza Nuova ha detto che nel 28 non ci sarà nessun evento, ma che ha presentato un preavviso per un'altra data. All'estero adesso, ieri abbiamo parlato della liberazione di Raqqa, liberata dall'ISIS, e oggi una milizia curda femminile, le donne hanno partecipato moltissimo alle battaglie in Siria contro l'ISIS, questa milizia curda femminile che ha preso parte alla riconquista di Raqqa in Siria ha detto oggi che intende continuare a combattere per liberare tutte le donne che si trovano nei territori ancora occupati dallo Stato Islamico. L'annuncio è stato dato da Nisrin Abdullah, portavoce della Milizia Unita di Protezione delle Donne, durante i festeggiamenti a Raqqa per la vittoria sui jihadisti del cosiddetto califfato. La manifestazione si è svolta sulle piazze Al Naim, dove i miliziani dell'ISIS erano soliti compiere pubbliche esecuzioni e anche lasciare esposte le teste mozzate delle vittime. Nasrin Abdullah ha detto che la sua unità ha perso 30 miliziani nella battaglia per conquistare Iraq e ha contribuito a liberare anche molte donne della comunità yazidi che erano state fatte prigioniere dello Stato Islamico in Iraq e diventate schiave sessuali. E ora, a proposito della ThyssenKrupp, non ci sarà, secondo la sentenza della Cassazione, alcuna riduzione della condanna inflitta ai manager dell'azienda, tra i quali l'ex amministratore delegato Harald Espenan per il rogo avvenuto nel dicembre 2007 a Torino, a seguito del quale morirono 7 operai dello stabilimento della Thyssen di Torino. L'ha deciso la Cassazione, respingendo quindi i ricorsi straordinari presentati da 4 ex dirigenti dell'acciaieria contro il verdetto emesso dalla stessa Suprema Corte il 13 maggio 2016. E ora Torino, che per lo smog lancia l'allarme: non aprite porte e finestre. Piovere non piove e nemmeno c'è una promessa di precipitazioni consistenti, se non da domenica, così la pianura padana, come periodicamente avviene, si trova immersa in un'aria immobile e inquinata, tanto da spingere la Giunta Comunale di Torino ad emanare un invito ai cittadini a muoversi poco a piedi o in bicicletta e comunque per tratti brevi e ad aprire il meno possibile porte e finestre, suggerimento valido soprattutto per anziani, bambini e persone affette da patologie cardiologico-polmonari. In città, il divieto di circolazione fino ai diesel Euro 4 dalle 8 alle 19 potrebbe essere esteso agli Euro 5 da sabato. Le polveri sottili del resto hanno superato una concentrazione che è il doppio del limite di legge. Limite che viene superato da più di una settimana in tutte le province lombarde e in gran parte di quelle del Veneto e dell'Emilia-Romagna. In quest'ultima regione scatteranno da domani le stesse misure di Torino, lo stop agli Euro 4 in tutte le province, tranne che a Ravenna. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere ci colleghiamo con il nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sull'Europa League, perché già una partita è finita, quella della Lazio che ha vinto 3-1 a Nizza contro il Nizza, vero Giovanni? Sì, eccomi Roberta, sì, ha vinto 3-1 e praticamente ha ipotecato il passaggio agli sedicesimi di finale, tra l'altro da prima della classifica, perché in questo momento la Lazio è a punteggio pieno, 9 punti davanti proprio al Nizza che ne ha 6, poi ci sono Vitesse, Zulte, Vareghem con un solo punto. Lazio che ha vinto 3-1, in vantaggio si erano portati i francesi con Balotelli, dopo 4 minuti un bel colpo di testa su cross di Sneijder, pochi istanti dopo c'è stato il pareggio della Lazio con Caicedo, Lazio che poi nel secondo tempo ha trovato la doppietta di Milinkovic-Savic, due bei gol e che quindi sono stati gol che hanno regalato ai biancocelesti il successo. Sono in campo invece altre due italiane, Milan e Kappa, ve ne parleremo tra pochi istanti perché c'è anche l'Atalanta che è da poco passata in vantaggio con un gol di Ilicic al decimo minuto del primo tempo, Atalanta che gioca in casa contro l'Apollon Limassol e Atalanta che sta facendo un girone di Europa League davvero straordinario, in questo momento avrebbe 7 punti e sarebbe in testa nel suo girone. Gasperini per questa partita che è decisiva ha scelto di far giocare tutti i migliori, ha recuperato anche il Papu Gomez e dunque Atalanta che va a cercare la vittoria che significherebbe un bel passo avanti sulla strada della qualificazione. Dicevamo invece del Milan che gioca a San Siro contro l'AEK, Milan in piena crisi, reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato, risultato 0-0 quando siamo nel 12esimo minuto del primo tempo. Milan che ha iniziato si è visto annullare un gol con Cutrone per un fuorigioco che c'era seppure di qualche centimetro. Milan ha schierato con il solito 3-5-2 con una formazione molto sbilanciata in avanti, a San Siro non c'è molta gente, questa è una partita importante per il Milan non tanto per il girone visto che i rossoneri sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate con 6 punti, quindi la qualificazione non sembra in bilico ma è evidentemente importante dal punto di vista psicologico e del morale per tornare alla vittoria dopo i rovesci, l'ultimo nel derby di domenica sera contro l'Inter, una partita che è stata preceduta dal duro attacco del direttore sportivo del Milan Mirabelli a Montella, allenatore in bilico, le parole pronunciate da Mirabelli prima della partita sulla scadenza o meno del tecnico e sulla delusione sono parole che ovviamente faranno discutere in campo il Milan, al di là dell'occasione che abbiamo raccontato prima di Cutrone, sta facendo fatica anche in questo avvio di partita, 13esimo 0-0, l'Atalanta vi dicevamo invece vince 1-0 contro l'Apollo. A te Roberta. Grazie Giovanni Capuano, a dopo, adesso vi lascio brevemente gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, poi ritorniamo subito insieme per cominciare ad approfondire i vari temi, alcuni che vi anticipavo all'inizio con gli ospiti. Intanto i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Dice questo ascoltatore, per esempio, chiedo scusa ma non è vero che Puigdemont non ha risposto a Rajoy, gli ha scritto una lettera in cui si chiedeva nuovamente, apro questo WhatsApp, cosa dice questo ascoltatore, si chiedeva nuovamente di sedersi a un tavolo per parlare, la risposta è stata l'attivazione dell'articolo 155, in realtà non è stato ancora attivato, si annuncia che si attiverà, insomma nel fine settimana sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri, al Senato eccetera eccetera, in Spagna ci sarebbe forse ancora un margine di dialogo, lo scopriremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora cominciamo adesso a prendere alcune di queste notizie che vi raccontavo nella sintesi della giornata, ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, Roberto Giordano sempre con voi dalle 21 alle 22 tutte le sere e dicevo cominciamo allora a approfondirle insieme agli ospiti, a scendere un po' nel cuore di questi argomenti per capirli meglio. Cominceremo appunto dalla Catalogna, da questa seconda scadenza, questo secondo ultimatum che ormai è andato e capiamo adesso che cosa succede nei prossimi giorni e anche nelle prossime ore. I vostri messaggi, vi ricordo, se volete intervenire, commentare, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Vedo molti commenti sulla politica, su Banca Italia, di questo ci occuperemo dopo. Intanto c'è un ascoltatore che dice se Berlusconi non fosse ricco, a proposito della ricetta che ha dato della sua piena forma con la quale è tornato a far politica, dice se non fosse ricco come lo è diventato, dice un mistero che io conosco, Berlusconi lo voterebbero solo i suoi parenti, insomma, ma questa è così, un'affermazione che rimane lì così, chi lo può sapere. Intanto vi ricordo i fatti, quelli concreti, le notizie principali di oggi sono queste. caso Banca Italia. Dopo la mozione del PD resta alta la tensione tra i partiti e tra le istituzioni. Renzi dice che il governo era d'accordo, interviene anche Berlusconi e dice che il governatore non ha svolto il ruolo di vigilanza che ci si aspettava. E poi tragedia a Santa Croce, a Firenze, un turista spagnolo ucciso da un capitello che è caduto, che lo ha colpito la testa. Il ministro Franceschini lancia subito questa richiesta di indagine. Infatti la Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta. Barcellona respinge l'ultimatum, scontro aperto con Madrid, ne parleremo tra pochissimo. E poi al via il vertice europeo, sono ancora naturalmente i paesi divisi sui migranti, domani ci collegheremo probabilmente anche con Bruxelles. Poi Torino che chiude per smog, sono altissimi i livelli, addirittura il comune dice non aprite porte e finestre. E secondo un rapporto shock sulla rivista Lancet, l'inquinamento fa 9 milioni di morti l'anno, dati del 2015, responsabile dunque di un decesso su 6. Poi l'occupazione che in Italia non decolla, c'è un boom di contratti a chiamata. C'è stato oggi un prima via libera alla cannabis per uso terapeutico, le prescrizioni saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale. E poi le partite, abbiamo sentito poco fa i risultati in campo, l'Europa League, la Lazio che ha vinto e adesso ci sono Atalanta e Milan. Quindi la Catalogna, vi dicevo che oggi scadeva il secondo inderogabile ultimatum dato da Madrid al presidente catalano Puigdemont affinché chiarisse una volta per tutte la sua posizione sull'indipendenza e soprattutto che la abiurasse, diciamo. Da Puigdemont non sono arrivate risposte, o meglio ha respinto questo ultimatum al mittente e quindi praticamente non ha soddisfatto l'aspettativa del governo di Madrid. E quindi il governo centrale si appresta ad avviare le procedure per l'applicazione del famoso articolo 155 della Costituzione spagnola che prevede la sospensione dell'autonomia, in questo caso della Catalogna. Ne parliamo con il nostro Luca Veronese del Sole 24 Ore. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, Puigdemont minaccia che se prosegue la repressione e l'assenza di dialogo, il Parlamento catalano potrà procedere a votare la dichiarazione formale di indipendenza. Quindi è un muro contro muro o secondo te dietro le quinte qualche trattativa, qualche margine di dialogo c'è o è in corso? Sono in realtà adesso due giorni, un giorno e mezzo ormai fino a sabato, quando il governo deciderà se applicare appunto l'articolo 155. Puigdemont ha fatto una mezza, anche meno, apertura dicendo che in realtà la dichiarazione di indipendenza unilaterale non è mai stata votata. Ma quello che emerge da questo scontro, questo muro contro muro ormai che dura da anni, mesi e che si è acceso ancora di più nelle ultime settimane, è che le parti si stanno abituando a questo scontro che sanno che andrà avanti nel tempo. Adesso la prossima scadenza è sabato, poi ci sarà l'assemblea, il Senato che dovrà decidere se appunto applicare l'articolo 155 e poi ci saranno mesi in cui il governo deciderà come applicarlo, in che modo, in che tempi, perché non è mai stato applicato, quindi non si sa bene come farà il governo di Madrid a sospendere l'autonomia e l'indipendenza. Sembra, scusa Luca, che sia circoscritto ad alcuni settori fondamentali, per esempio come le finanze o come le forze di polizia. Sì, questo può essere, questa è un'interpretazione che danno, ma l'obiettivo di Rajoy, si sa, è quello di portare la Catalogna al voto di nuovo per poi sfidare alle urne e cercare di contenere l'avanzata del fronte indipendentista. Quindi può arrivare fino allo scioglimento dell'Assemblea e ad indire nuove elezioni. Quindi è uno scontro che comunque andrà avanti per anni, perché se anche qualcuno prevarrà chi sarà invece e la parte perdente non accetterà la sconfitta, probabilmente sarà a prevalere la forza dello Stato anche grazie all'appoggio della comunità internazionale, ma è uno scontro che andrà avanti per anni e anni. Probabilmente l'unica soluzione, e di questo si sta parlando in questi giorni, in queste ore, anche sotto traccia, anche in modo informale, è una vera riforma dello Stato, del rapporto tra lo Stato centrale e le regioni, che è la cosa che tutti volevano fare e che nessuno ha fatto poi in realtà negli ultimi 10 anni. Luca, quindi diciamo i passi decisivi saranno forse sabato, dicevi, per l'appunto, no? Con il Consiglio dei Ministri straordinario spagnolo, e poi di lì si capirà, come dicevi tu, se effettivamente sanno come applicare questo articolo 155 mai utilizzato sinora, e vedremo anche Puigdemont, che continua a minacciare, annunceremo l'indipendenza, se è effettivamente in grado di farlo. La situazione si è un po' ingarbugliata sabato il governo deciderà questo 155, poi il Senato il 30 o il 31 di questo mese dovrà dare il via libera dopo aver sentito una commissione Stato Regioni, e poi avanti di decisione in decisione del governo per vedere che cosa veramente succederà. La Catalogna può dichiarare l'indipendenza, ma a quel punto è sospesa in tutti i suoi poteri e le sue funzioni, quindi difficilmente avrà effetti reali nella vita. Situazione molto complessa. Grazie Luca Veronese. Ciao. Grazie Luca. A voi, a buona presto. Serata. Ciao. Ora direi che ci possiamo prendere una pausa, così voi fate le vostre riflessioni su questo o sui prossimi argomenti, in particolare su Banca Italia. Ci sono tanti messaggi vostri sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Per esempio Fabio dice: il PD alias MPS d'Etruria che fa la mozione contro chi gli ha dato copertura è ridicolo, dice Fabio. Mentre Marco da Bergamo: sul caso Visco tutti affermano che Banca Italia non avrebbe vigilato in modo adeguato, ma nessuno cita un documento in cui ciò venga comprovato. Forse perché questa prova al momento non c'è, chiede Marco, ne parliamo tra pochissimo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State per caso ascoltando Effetto Notte? Allora siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Quindi riprendiamo allora con le tante notizie di oggi. Abbiamo parlato poco fa della Catalogna, di questo secondo ultimatum scaduto e di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Cosa succederà invece nelle prossime ore qui in Italia, nella politica italiana e in questa tensione tra politica e istituzioni a proposito di Banca Italia? Ne parleremo a momenti con la nostra Barbara Fiammeri. Intanto vi aggiorno su una notizia che è arrivata pochissimo fa, pochi istanti fa. Il sindaco di Amatrice, che ormai conoscete, ne avete sentito parlare tante volte, Sergio Pirozzi, dopo il terremoto, intervenuto in tante occasioni, ebbene, pare che sia candidato alle regionali nel Lazio, le regionali nel Lazio del 2018. Questo secondo quanto riferisce l'edizione reatina online del Messaggero. A sostenerlo, sempre secondo il quotidiano romano, sarà una lista civica, quindi avrà una lista civica con il suo nome all'interno del centrodestra. L'ufficialità è attesa alla presentazione del suo libro a Roma il 24 ottobre, quindi protagonista assoluto il sindaco di Amatrice. Resteremo sulla politica, ma a livello nazionale, quindi vi dicevo tra poco. Intanto vi ricordo, se qualcuno è ritardatario, quali sono i fatti principali di oggi. Sempre in primo piano naturalmente il caso Banca Italia, alta tensione tra i partiti, tra le istituzioni, ne parleremo come dicevo a momenti, poi la crisi spagnola di cui abbiamo appena parlato, la tragedia a Firenze, la procura del capoluogo toscano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte nella Basilica di Santa Croce di un turista spagnolo a causa della caduta di un capitello. Poi per l'inquinamento, Torino che chiude per smog, il comune che avverte i cittadini di non aprire né porte né finestre. Secondo gli esperti, un rapporto shock pubblicato sull'Lancet, l'inquinamento uccide, una morte su sei è dovuta all'inquinamento, solo nel 2015 9 milioni di morti. Cannabis, c'è stato il primo via libera per uso terapeutico, le prescrizioni saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale. E poi per il calcio è in campo l'Europa League, con la Lazio che ha battuto 3-1 il Nizza, e proseguono intanto le partite con il Milan che per il momento pareggia 0-0 con AEK Atene, e poi l'altra partita è quella dell'Atalanta Apollon, 1-0 per il momento per l'Atalanta. Il Presidente del Consiglio mi ha telefonato nel pomeriggio di martedì per sottolineare come secondo lui questa mozione avesse dei punti da cambiare. E io penso che il segretario del partito di maggioranza cerca sempre di aiutare il Presidente del Consiglio, tant'è vero che l'abbiamo cambiata. Quindi praticamente su questa vicenda Renzi dice: il governo era d'accordo, Gentiloni lo sapeva, e quindi è sempre più incandescente l'atmosfera intorno a questa vicenda di Banca Italia, no? Scaturita, vi ricordo, dalla mozione del PD approvata 2 giorni fa alla Camera, contro il rinnovo della nomina dell'attuale governatore della banca Ignazio Visco per i vari dissesti bancari che ci sono stati nei mesi scorsi. Renzi ha subito detto due giorni fa che ne era all'oscuro di questa mozione, ma continua comunque da giorni a difendere strenuamente questa mozione del PD. Contro di lui sono piovute critiche un po' da tutte le parti, da destra, da sinistra, anche dai vari ministri, anche Padoan, Calenda, anche Mattarella è intervenuto su questo. Ieri si diceva che Gentiloni a sua volta non ne sapeva nulla, ma avete sentito Renzi oggi ha ribadito più volte nelle ultime ore che lui era d'accordo, che era stato informato, perché ci vuole prima di tutto l'approvazione del governo. C'è stata la limatura prima e poi l'approvazione del governo per questa mozione che poi è passata alla Camera. Oggi sembrava anche che ci fosse un po' di maretta tra Gentiloni e la sottosegretaria Boschi, poi invece pare che questa cosa sia rientrata. Sentiamolo. Intanto saluto Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Dopo ti leggerò una sfilza di messaggi che se vuoi commenterai. Intanto abbiamo sentito prima Renzi, sentiamo ora Di Maio dei 5 Stelle cosa dice a proposito di questa vicenda e di Renzi. Sulle banche il PD è il principale responsabile del disastro, perché MPS era un partito, non una banca, e hanno messo loro e hanno lasciato loro lì il governatore di Banca Italia, il capo di Consob. Adesso Renzi vuole rifarsi una verginità fingendo di fare la battaglia su Visco, ma è una sciocchezza, perché sappiamo bene che lui e la Boschi sono tra i principali responsabili di questo disastro bancario. Un'altra affermazione invece di Renzi a 8:30 sulla 7 stasera. Se tutti sono arrabbiati, che è successo? Io non ho grandissimo rispetto per le persone che lei ha citato e penso che molti di loro, più che entrare nel merito, abbiano posto una questione, la definirei di stile, di galateo istituzionale. E penso che tra la difesa dei risparmiatori e il galateo istituzionale, io personalmente sarò sempre dalla parte della difesa dei risparmiatori. Allora, Salvini, della leader della Lega, dice: per difendere i diritti di migliaia di italiani truffati, scriverò Gentiloni e Mattarella, ma è evidente che l'insabbiatore Renzi attacca Visco perché non vuole che vengano fuori le responsabilità sue e del governo. Poi però c'è anche Bersani, leader del Movimento Democratici e Progressisti, fuoriusciti, lo ricordo, dal PD, che dice: si vuole dare addosso le guardie per lasciare tranquilli i ladri. Barbara, a parte tutte queste critiche e Renzi che continua a difendersi, come abbiamo sentito, non pare anche, per esempio, forse un po' paradossale, almeno per quelli che possono essere dei preconcetti ideologici, che anche la sinistra di Bersani difenda Visco, governatore della Banca Italia, per esempio? Ma la cosa che mi viene da dire è che siamo già in piena campagna elettorale, quindi ognuno, quindi chiarisci ognuno tutto recita così, dici. Una parte, ognuno recita una parte, come avviene sempre in questi casi. Capisco che sto usando delle espressioni un po' brutali, ma insomma Bersani si sa che non si vuole alleare con il PD, quindi giustamente attacca il Partito Democratico, peraltro come fa anche su altri temi, dallo Ius Soli alla legge di bilancio, alla legge elettorale, quindi ormai sono su fronti opposti. E Salvini sulle banche, così come il Movimento 5 Stelle, da sempre insomma ne fa un punto della propria campagna elettorale, e Renzi gioca in difesa avendo fatto questa iniziativa della mozione. Però, come dicevo anche ieri, sì, lo ricordo ai nostri ascoltatori, puntualizzavo proprio sul fatto, perché ieri non si sapeva se Gentiloni sapesse o non sapesse, e io ho fatto notare che comunque la seconda mozione votata poi alla Camera aveva ricevuto il parere favorevole del governo. Ora, se il governo non sapeva nulla della prima, della seconda sicuramente era stato informato. E il governo prima di tutto Gentiloni favorevole. Che è il presidente. E il governo innanzitutto Gentiloni. È evidente che non poteva non sapere della seconda mozione il Presidente del Consiglio. Quindi questo semplicemente per ricordare un po' come si sono svolti i fatti. Barbara, io però ti farei sentire, anche perché su questa vicenda è intervenuto anche Berlusconi, che abbiamo sentito all'inizio, tornato in formissima, più agguerrito che mai, dimagrito di 11 kg e volenteroso, desideroso di vincere col centrodestra, che ha detto più volte: no, avremo la maggioranza, alleati tutti insieme. Ma sentiamo su questo tema che cosa ha detto. Certamente la Banca d'Italia non ha svolto quel controllo che dalla banca stessa ci si attendeva. Quindi non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato. Peraltro io ieri ho detto che in questo si può vedere anche quella voglia, quella volontà da parte della sinistra di occupare tutte le poltrone di potere. Una volta lo facevano dopo le elezioni, adesso si stanno esercitando per farlo anche prima. Quindi Berlusconi in realtà dà un po', diciamo, ragione al PD, a Renzi eccetera, dicendo che Non è un passaggio, un dettaglio da poco, perché bisogna ricordare che Berlusconi è stato, come dire, quando Visco viene nominato al governo a Palazzo Chigi c'è Silvio Berlusconi. Allora ci fu un duello, uno scontro molto forte tra l'allora ministro del Tesoro Giulio Tremonti e appunto il premier Silvio Berlusconi, che proponevano nomi diversi. Se non ricordo male, Berlusconi puntava su Saccomanni e invece Tremonti puntava su Grilli. Alla fine Visco fu la mediazione, quindi a scegliere Visco è stato l'allora presidente del Consiglio e poi suffragato poi dalla decisione del Capo dello Stato. E quindi è evidente che anche questa presa di posizione di Berlusconi è un modo di prendere le distanze da Visco. Mm-mm. E tutti non ne vogliono sapere di quello che è successo, no? Non vogliono prendersi la responsabilità di quello che è successo per i dissesti bancari. Barbara, ti leggo velocemente alcuni messaggi degli ascoltatori, per esempio Walter tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Walter dice: la mozione su Banca d'Italia è una manovra per attirare dalla parte del PD il voto dei fregati dalle banche. Poi Fabio, il PD alias MPS, quindi Monte dei Paschi ed Etruria, che fa la mozione contro chi gli ha dato copertura, è ridicolo. E poi Marco da Bergamo, sul caso Visco tutti affermano che Banca Italia non avrebbe vigilato in modo adeguato, ma nessuno cita un documento in cui ciò venga comprovato, forse perché questa prova al momento non c'è. Mentre Clotilde dice: concordo con Di Maio, l'usurpatore, intende Renzi, ha capito che sta perdendo e farà come Sansone, ma chi paga il treno? Sai la polemica sul treno su cui sta viaggiando per l'Italia per la campagna elettorale. Poi Sandro scrive: Renzi sta portando il PD ad essere un partito craxiano, da qui le convergenze con il PDL, ma come fece il latitante accettando sempre compromessi a ribasso in nome della governabilità, ha dato via libera ai peggio figuri. Giorgio: purtroppo si fa politica spiccia su nomine fondamentali, per di più mentre abbiamo ancora Draghi alla Banca Centrale Europea. In un paese come l'Italia il problema delle nomine emerge anche per le posizioni lecitamente di impronta politica. Antonio scrive: sono dei ciarlatani che con dichiarazioni del genere scontano solo i loro piccoli giochi interni, vanno mandati via. Poi Alessandro dice: si condanna Visco ma non i dirigenti delle banche. Quale vuoi commentare, Barbara? Tanti messaggi. Ma dico che come al solito i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti rispetto alle vicende che hanno protagoniste della politica. Sì. Direi che quasi tutti hanno ragione, cioè sia chi dice appunto che Renzi, come dire, ha giocato d'anticipo per, come si è detto, per evitare insomma di entrare nel mirino della 5 Stelle e della Lega, ha ragione chi dice che comunque l'indipendenza della Banca d'Italia e la tutela, diciamo, della Banca d'Italia dovrebbe essere una priorità di tutte le forze politiche. Però, come abbiamo detto, La vicenda delle banche, cioè fino a qualche anno fa la Banca d'Italia era veramente vista come un santuario. Che cosa è accaduto? È accaduto che nel momento in cui i risparmiatori hanno pagato in prima persona quelle che sono state la mala gestione da parte dei banchieri, insomma questo santuario si è un po' incrinato, perché comunque aveva il compito di vigilare su queste banche, quindi o ha vigilato male, non ha vigilato abbastanza, quindi la politica su questo ovviamente ci mette il suo carico per prendere le distanze, dicevi, per prendere le distanze, e ognuno fa il suo giochino. Chiaro. Barbara Fiammeri, ti ringrazio e ci sentiamo probabilmente domani, perché la vicenda grazie va avanti. Grazie a voi. Ciao Barbara. Buonasera. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quanta roba da raccontarvi, come sempre in 60 minuti, quindi vi ricordo molto velocemente che le notizie principali sono l'alta tensione su Banca Italia che continua, ne abbiamo parlato, poi la tragedia a Santa Croce a Firenze, di cui ci occuperemo tra pochissimo, e poi per quanto riguarda la scadenza dell'ultimatum che Madrid ha dato a Barcellona, Barcellona respinge questo ultimatum, è scontro aperto con Madrid, vedremo nelle prossime ore se il governo spagnolo sospenderà davvero l'autonomia catalana. A questo punto ci concentriamo su una di queste notizie principali, che è la tragedia incredibile, quantomeno imprevedibile, che è successa a Firenze, una disgrazia assurda, un turista spagnolo di 52 anni di Barcellona, Daniel Testor Schnell, che è morto all'interno della famosissima Basilica di Santa Croce nel primo pomeriggio, è successo oggi, poco dopo le 14.30, è stato colpito alla testa da un frammento di pietra che è caduto da un capitello. Molti hanno parlato di enorme sfortuna, anche se effettivamente non ci si aspetterebbe, no, che in un monumento, diciamo così, così celebre, visitato ogni anno da centinaia di migliaia di persone, possa succedere una cosa simile. Ricordo che la Basilica di Santa Croce a Firenze è nella piazza omonima ed è una delle massime realizzazioni del gotico in Italia, iniziata la sua realizzazione nel 1200, ed è tempio delle Itale Glorie, e come disse Foscolo, perché ci sono sepolti da Galileo a Michelangelo, a Machiavelli, allo stesso Foscolo, Rossini, Leon Battista Alberti. E fra le opere più famose che vi sono dentro Santa Croce c'è il crocifisso di Donatello. La presidente dell'Opera di Santa Croce, Irene Sanesi, ha detto: siamo distrutti, esprimiamo cordoglio per la famiglia, e ha detto che c'è un piano pluriennale di manutenzione, di restauro, di prevenzione, fatto anche in collaborazione con la Protezione Civile, e dice perciò quello che è accaduto ci chiediamo come sia potuto succedere. Franceschini ha detto che ha dato subito disposizione perché si aprisse un'indagine, infatti la Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ci colleghiamo con il nostro Ubaldo Cianciulli. Ciao Ubaldo. Ciao Roberto, buonasera. Quindi ho sintetizzato un po' questa cosa terribile che è successa, no? in una chiesa così famosa, così amata, così visitata. Sì, sembra purtroppo la sceneggiatura quasi di un film, la morte che gioca col turista, perché pensare che un sasso di 40 centimetri possa cadere dall'altezza di 30 metri e andare a colpire in una basilica molto grande la testa di un turista è una cosa drammatica, tragica, perché poi ovviamente si è conclusa con la morte del turista stesso, ma è una cosa quasi assurda. Se pensiamo, guarda, paradossalmente, che due settimane fa in Piazza della Signoria a Firenze è crollata una statua di cera, sì. molto più grande, sì. Non è successo niente. È caduta di sera, no? Si era sciolta il piedistallo, mi pare. Sì, sì, però sai, non è che si è venuto giù di schianto all'improvviso. E anche lì, ovviamente, Piazza della Signoria è una piazza molto famosa, molto visitata, certo. Le statue stesse sono molto fotografate, in quel momento lì attorno non c'era nessuno, fortunatamente. Lì purtroppo oggi pomeriggio, sotto quel sasso che ha deciso di staccarsi, c'era un turista che ha perso la vita. Pochi minuti prima c'era un gruppo di turisti, una guida turistica, infatti ha detto: noi lì normalmente ci fermiamo per fare per spiegare la basilica ai turisti, quindi normalmente magari in quei punti si fermano anche dei gruppi di turisti. In quel momento c'era un turista che stava passando, e questo questo sasso, in pratica, e secondo una descrizione più tecnica, serve a reggere le assi che sottostanno al tetto stesso. Ubaldo, scusami, leggo che il segretario generale dell'Opera di Santa Croce, Giuseppe De Micheli, ha detto proprio: solo una settimana fa avevamo impiegato un elevatore per pulire in altezza le vetrate della parte basilica, della basilica dove oggi è avvenuta la tragedia, ne avevamo approfittato, come facciamo di solito, anche per effettuare un controllo sulle superfici di quella zona, tutto era risultato regolare. Infatti quello che sto dicendo, però appunto proprio una settimana fa c'è stato questo tipo di controllo, quindi di manutenzione ordinaria, perché appunto ogni anno vengono effettuati questi tipi di controlli e nulla era risultato. Ora ovviamente c'è un'inchiesta per omicidio colposo, contro ignoti, e quindi aspettiamo procura, di vedere. Probabilmente domani anche il procuratore Benedetta Foti, che è incaricato delle indagini, potrà disporre o meno l'autopsia nei confronti della salma, che ora si trova alle Cappelle del Commiato a Careggi. E allora, semmai, Ubaldo, ci sentiremo per aggiornamenti, magari domani, quando se possibile si saprà qualcosa di più. Grazie Ubaldo Cianciulli. Buona serata. Da Firenze. Ciao Ubaldo. Adesso invece il nostro Giovanni Capuano ci dice che cosa sta avvenendo per le italiane in Europa League. Gianni. Eccomi, finiti i primi tempi da pochi istanti, 0-0 a San Siro tra Milan e Capatene, una partita che il Milan sta soffrendo. Le due migliori occasioni sono state per i greci e sono state due occasioni clamorose. Al 41esimo è stato miracoloso Donnarumma, ad esempio, su un colpo di testa di Levaia, e alla mezz'ora invece il pallone ha danzato davvero sulla linea della porta dei rossoneri. Milan che si è visto con qualche conclusione di Cutrone e Locatelli, ma niente di speciale. Sta vincendo invece 1-0 l'Atalanta contro l'Apollon Limassol, decide il gol già raccontato al 12esimo di Ilicic su assist di Spinazzola, Atalanta che in questo momento sta dominando il suo raggruppamento. Nella gara delle 19, lo ricordiamo, la Lazio ha vinto 3-1 a Nizza con doppietta di Milinkovic-Savic e gol di Caicedo. Lazio che è a punteggio pieno, 9 punti nel suo girone dopo 3 giornate. A te. Grazie Giovanni Capuano, e con questi risultati temporanei ci dobbiamo lasciare, poi lo sapete che ritorno alle 22 per i titoli principali.